Per quanto il termine peccato sia all'ordine del giorno, per molti esso rimane solo una parola che fa parte del nostro linguaggio. Noi diciamo quella roba è sprecata. Che peccato, oppure peccato che non siamo andati a quella festa. Perciò è opportuno in poche parole fare una brevissima analisi riguardo a come è nato il peccato, la sua origine nell'umanità, perché Dio ha permesso il peccato, che cos è il peccato, e perché tutti noi siamo dei peccatori. La Bibbia insegna che il peccato non ebbe origine nell'uomo stesso, ma nell'angelo che noi tutti conosciamo nel nome di Satana. Tuttavia, non si sa in maniera completa come esso ebbe origine. È uno di quei misteri che la Bibbia non spiega appieno, anche se vi è una qualche allusione nel profeta Ezechiele al capitolo 28:14-15. In un ignoto passato, nel cuore di una delle più magnifiche creature del cielo si trovò l'empietà. Come essa vi giunse, non viene detto. Per qualche ragione non è piaciuto a Dio dare la risposta completa sull'origine del mistero dell'empietà. Ci basta sapere che l'autorità del maligno è nel mondo e che l'uomo è sotto il suo potere. Nel libro di Isaia troviamo un'altra allusione all'origine del male, anche se ciò che è scritto è riferito al re di Babilonia, ma come spesso succede, i riferimenti della scrittura sono molteplici. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord, salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nel soggiorni dei morti, nelle profondità della fossa. Isaia 14:12-15. Da questi richiami apprendiamo che il diavolo si ribellò e divenne Satana, cioè l'avversario, a causa della sua ingiusta ambizione. Una fuggevole idea che il peccato di cui si rese colpevole Satana fosse l'orgoglio ci viene presentata nel Nuovo Testamento, quando l'apostolo Paolo comandò che i diaconi non siano novizi per non cadere appunto in tale peccato, 1 Timoteo 3:6. Con queste parole dell'apostolo Paolo possiamo intendere che il peccato fondamentale di Lucifero fu quindi l'orgoglio, cioè il forte desiderio di essere come Dio. Questo desiderio Satana lo susciterà in seguito nei progenitori dell'umanità, Adamo ed Eva. Non vi sono dubbi che tutta l'umanità sia malvagia. Questo stato di cose è così da sempre. Oppure la razza umana è diventata malvagia in un preciso istante. Secondo la scrittura, l'Eterno creò l'uomo libero di agire secondo la propria volontà. Se l'Eterno Dio avesse creato l'uomo senza la facoltà di decidere le proprie scelte, l'uomo sarebbe stato soltanto un robot. Nel giardino di Eden, invece, l'Eterno gli diede la possibilità di scegliere tra il bene e il male, perché desiderava che egli, di sua spontanea volontà, decidesse di servire e adorare il suo creatore. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino della Caden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'Elio, uomo, dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Genesi 2:15-17. Sappiamo che in seguito Satana insinuò dei dubbi nella mente di Adamo ed Eva, ed essi cominciarono subito a non credere più nella bontà divina. Non erano più convinti che ciò che l'Eterno aveva detto era vero. Si lasciarono abbindolare dagli astuti discorsi di Satana, accettando l'idea che l'Eterno non aveva veramente a cuore il loro bene. Preferirono credere alle parole di Satana invece che alle informazioni di Dio, e finirono per disobbedire al loro creatore. Purtroppo, questo episodio della storia dell'umanità non viene accettato e viene ritenuto una favola. Se la storia di Adamo ed Eva non è vera, l'uomo ha il dovere di spiegare come mai la razza umana è tanto inclinata al male. se l'uomo e la donna sono il prodotto di una evoluzione cosmica, come possono essere così inclinati al male dato che la materia non è morale? Del che solo l'uomo mente, uccide per vendetta, si accusa e si scusa a vicenda, mentre ogni altra creatura non ha questi requisiti, perché solo la creatura umana è religiosa? Da dove proviene nell'uomo il senso del peccato? Non è stata la religione a produrre il peccato, ma è il peccato che ha prodotto ciò che è religioso. Per onestà di pensiero si dovrebbe credere alla disubbidienza di Adamo ed Eva, come è descritta nella Bibbia, in attesa di avere un racconto che sia razionalmente più credibile. Ma poiché in questi migliaia di anni si sono proposte idee non razionali, alla fine rimane intellettualmente accettabile che all'inizio la creatura umana sia stata creata perfetta e che in seguito si sia corrotta da sola, per un atto di disubbidienza simile a quello del diavolo. Non poche persone si sono poste la domanda perché l'Eterno Dio abbia permesso ad Adamo ed Eva di peccare. Due possono essere le risposte. Un universo nel quale nessun male fosse stato possibile avrebbe richiesto una creazione nella quale nessun altro se non Dio stesso avesse avuto il potere di scegliere. Ma Dio desiderava la compagnia di una creatura avente la capacità di scegliere. Genesi 1:26, 27, 3, 8, 9. Un'automobile ubbidisce a tutti gli ordini del suo conducente, ma un uomo in genere preferisce la compagnia di una donna, anche se questa non sempre risponde ai suoi desideri. Da un punto di vista morale, l'Eterno avrebbe potuto sopprimere il peccato fin dall'inizio, ma se egli avesse voluto reagire così, probabilmente non avrebbe fatto delle creature libere di scegliere. Se la disobbedienza non avesse costituito l'oggetto di una scelta, l'obbedienza non avrebbe avuto allora nessun significato. Poiché gli uomini avevano peccato, Dio inviò suo Figlio nel mondo per esserne il Salvatore. Questo dà ad ogni uomo il privilegio di fare una scelta in vista del suo destino eterno. Così quelli che si sottomettono a Dio nell'ubbidienza della fede sono ricevuti da Lui e lavati dai loro peccati in virtù dell'espiazione compiuta da Cristo. Dio permette agli uomini di continuare a fare la loro scelta nei limiti della sua direzione provvidenziale. Egli dirige le circostanze in modo tale che essi raccolgono i frutti dai loro atti. In questo modo quelli che sono figli di Dio ricevono molte lezioni di grazia e di fede, lezioni che non potrebbero mai essere ricevute dal cielo mentre gli altri vivono nel peccato. Ma cos'è questo peccato? Il peccato è una trasgressione rivolta contro Dio. È lo stabilire una falsa indipendenza. Il peccato è la sostituzione di una vita vissuta per se stessi ad una vita vissuta per Dio. Desiderare ciò che l'Eterno ha proibito significa preferire se stessi a Dio. E ciò è peccato. Nei 10 comandamenti ci viene detto di non desiderare o di non bramare in modo illecito e di non desiderare nulla che sia proibito da Dio. Sono molte le parole del Nuovo Testamento tradotte con peccato, e una delle più comuni è amartia, che significa mancare il bersaglio o lo scopo. Il peccato è mancare lo scopo cui deve mirare la vita e al quale essa dovrebbe pervenire. Quindi il peccato è l'incapacità di vivere secondo i criteri stabiliti da Dio. Poiché nessuno di noi è capace di adempiere in modo perfetto tutte le leggi di Dio in tutte le occasioni, abbiamo tutti mancato il bersaglio e siamo sotto il giudizio di Cristo. Per molti essere peccatori causa Adamo ed Eva è una ingiustizia e non trovano giusto che si debba essere condannati causa agli altri. Questo ragionamento non farebbe una piega se non fosse che pur essendoci la tentazione al peccato trasmessaci dai nostri progenitori, noi siamo tuttavia peccatori per libera scelta. Al momento in cui raggiungiamo l'età della responsabilità e ci troviamo davanti la scelta tra bene e male, preferiamo tutti in una occasione o in un'altra adirarci, dire una menzogna, agire in maniera egoistica. Il re Davide disse, «Ecco, io sono stato formato nella iniquità, e la madre mia mi ha concepito nel peccato». Salmo 51, 5. Questo non significa che sia figlio illegittimo, ma che aveva ereditato dai suoi genitori la tendenza al peccato. Anche il profeta Geremia riconobbe che il male è insisto nell'uomo. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Geremia 17:9. Non ch'essa è che è nulla al mondo, diceva un gran domatore di leoni, simile ad un leone domato. Un leone può comportarsi bene oggi, ma può diventare una furia scatenata domani. Nessuno di noi può realmente avere fiducia nel proprio cuore. La Bibbia esprime in maniera vivida ciò quando dice il peccato sta spiandoti alla porta. Genesi 4:7. Davanti alle circostanze propizie la maggioranza di noi è capace di quasi ogni trasgressione. Ciò non significa che tutte le persone siano prive di quelle qualità che fanno piacere all'uomo. L'uomo può possedere certe qualità morali, può essere un gentiluomo in ogni senso della parola, ma tuttavia l'insegnamento della Scrittura è che tutti sono privi di quell'amore per Dio che è l'esigenza fondamentale posta dalla legge. E ciò significa che l'uomo medio tende a preferire se stesso a Dio. L'incapacità di soddisfare le divine esigenze rende l'uomo colpevole e lo pone sotto la condanna. La colpevolezza lo rende meritevole di punizione. La santità di Dio reagisce contro il peccato, perché egli è un Dio santo e per questo esiste l'ira di Dio su tutti gli uomini. Romani 1:18. Ma il messaggio del Vangelo non finisce qui. Il problema del peccato è stato risolto una volta per sempre da Cristo mediante la sua morte in croce. Perciò se si parla del peccato non è per spaventare la gente, ma solo per far comprendere l'amore di Dio. Dio ama il peccatore proprio perché è peccatore. Desidera che egli partecipi alla sua gloria celeste e per questo, nonostante tutto, non lo ritiene più peccatore. Se pone fede in Cristo, quale Salvatore Signore, il peccato viene per sempre dimenticato. Diversamente, la conseguenza del peccato, cioè la perdizione eterna, rimane. Cosa ne facciamo dell'amore di Dio? Dicembre 2005. Ellero,